il sito è www.ondarossa.info, dove si possono trovare tante notizie interessanti, ma anche la nostra campagna di crowdfunding, il nostro radio abbonamento, 30 euro annuali. C'è un banner specifico e cliccando lì sopra si aprono le varie possibilità di adesione. Adesione importante perché questa radio non fa nessuna forma di pubblicità e per garantirsi la propria esistenza difficilissima è necessario che, oltre che le iniziative nei centri sociali, ci sia un supporto anche degli ascoltatori, anche in questa forma. Un rapido giro di salute, abbiamo Anna qui a Roma, al pari di Giuseppe Verticchio che vado a salutare, musicista industrial di NAM, LAM e NIM. E poi Cecilia Miradoli di Pindara, Ernesto Brusati a Varese, come Panico da palcoscenico che ci siamo gustati qualche settimana or sono, e noi chiaramente aspettiamo sempre delle nuove uscite. Il medico della peste, il fedelissimo Tabula Rasa. Un saluto a Maya. Salutiamo anche Venusia Stramonio, un pseudonimo bizzarro che nasconde in realtà un grosso musicista, Alfa Privativa e Cupio Dissolvi, il quale materiale presto sarà qui in prove tecniche di trasmissione. Isetual. Orlando Furioso in Piemonte di Radio Poderosa, Tiziano Farinacci di Pi Greco, Giovanni Lisi, ottimo musicista, esoterico industriali, Corsi Scinti Serpente. Altrettanto importante è la storia musicale di Antonio Zoviet, alias Omicidio. A Brescia, Eresia Rex. Flavio D'Erbecante, Arianna Degni Lombardo, eccola qua, li salutiamo. Noise Cluster, anche questo uno storico progetto elettronico. E allora andiamo ad iniziare, lo facciamo con un disco che esce attraverso la Dissipazio, un'etichetta che noi apprezziamo molto, che abbiamo apprezzato molto negli anni e che lo facciamo a tutt'oggi. Questa sera avremo due dischi di questa etichetta. Il primo è appartenente a Satan Is My Brother, si chiama How Far Can You See, con il punto interrogativo, e potrete constatare come questi artisti abbiano marcato a fuoco il territorio jazz, il jazz sperimentale industriale, come si suol dire. Ci ascoltiamo il movimento numero 2 di questo lavoro per Satan Is My Brother. Thank you. Due livelli dunque di espressione sonora riguardante questi Satan is my brother, si chiamava How Far Can You See. Come ho già detto, esce per la Dissipazio, un quartetto dove c'è Luca Freddi e altri tre componenti. Dicevo il doppio livello, cioè il drone iperindustriale che ha dominato questi 9 minuti, ma sopra comunque le varie improvvisazioni jazz con il sax conseguente. Giustamente il buon Antonio Zovet ci ha ricordato John Zorn e gli Zoo, che in qualche modo ritengo siano delle influenze di Satan is My Brother. Durante questo brano lungo si sono aggiunti altri affezionati, abbiamo Lucia Cagliazza, Lupsi, che a breve ascolteremo, Francesco Cornello a Bergamo, abbiamo la storia ambient romana, Like Wake, Dario Righi, Progetto No Name, il mago dell'accordion, Sisto Palombella. Un'altra eminenza grigia, Marco Milanesio, produttore e musicista. Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, altro affezionato amico di questi spazi qui a Radio Onda Rossa. A suo modo è anche onirico questo Satan is my brother, sicuramente sogni non celestiali, come non lo sono quelli di Lupsi, di Lucia Cagliazza, contenuti in questo Eigen Deep, dove ci sono i riverberi e le sperimentazioni provenienti dalla sua magica chitarra, con appunto un substrato di atmosfere evocative ed oscure. E questa sera è il turno di Hidden Paths e Flowers. È bello che anche voi ascoltatori definite in qualche modo la musica che sto mandando delle definizioni precise, tipo lo stato di tensione citato da Marco Milanesio, uno stato di tensione che rende l'idea rispetto all'ideale scavo nel subconscio che attua Lupsi, Lucia Cagliazza, con queste strutture armoniche così oscure, a tratti dilatate, ma sicuramente a loro modo inquiete. Buonasera anche a Wurnus Eilin, storico industrial proveniente dal Piemonte. Abbiamo Laura Spirit Crusher, abbiamo Nicola Locci di Stigmate Hexagonal, grossa realtà musicale proveniente dalla Sardegna. Giustamente viene anche evocato Music to Play in the Dark dei Coil, ma in generale i Coil hanno influito su tanti musicisti della generazione attuale ed è inevitabile. Naturalmente di questo Eigen Deep attueremo un prossimo passaggio anche tra una settimana. E si parlava di inconscio e guarda un po', andiamo al collettivo inconscio di Luca Giuoco e si torna alla Dissipatio di Nicola Quiriconi. Ideale collage sonoro che vede la partecipazione di uno stuolo di musicisti importanti della scena italiana. La stessa Lupsi è citata come autrice, diciamo, di un frammento delle 9 tracce contenute in questo collettivo inconscio numero 1. Adriano Zagni, Alessandro Ragazzo, Alice Kundalini, Antonio Tonietti, Braconide, Daniele Santagiuliana, Emito Kunst, Mario Lino Stancati, Massimo Olla, lo stesso Nicola Locci, Oders, Remo Di Vico, Petrolio, Simon Ballestrassi, insomma una serie di personaggi che spesso hanno riempito e nobilitato le scalette del sottoscritto qui a Prove Tecniche di trasmissione. Sta per partire Magonia e Miracle e poi Calvary 21. Hammer over the Little warm mouth, plate empty mind. Little warm mouth, plate empty mind. un inizio di prove tecniche di trasmissione decisamente siderale, si va veramente a scandagliare gli abissi più profondi dell'animo, e lo ha fatto anche il collettivo inconscio. Già dal nome si possono intuire bene o male gli intendimenti. Questo collettivo inconscio volume 1, un progetto di Luca Giuoco, anche lui proveniente dal Piemonte, e i musicisti che ho nominato qualche minuto fa. Riguardo a loro, si dice all'interno della copertina, ciascuno ha donato un breve frammento sonoro di alcuni secondi, i campioni ricevuti, eterogenei per stile, ispirazione e caratteristiche sonore, sono stati sottoposti a molteplici e radicali sperimentazioni, per poi essere infine assemblati nelle 9 tracce che compongono questo lavoro. E appunto Luca Giuoco ha poi assemblato il tutto. Effettivamente si rasenta anche, come dire, una situazione mantrica, un vero e proprio mantra da un lato, ma anche riferimenti ai maestri della musica contemporanea del Novecento, Karl Hans Stockhausen, Luigi Nono, eccetera eccetera. Quindi operazione culturale di grosso livello perpetrata da Luca Giuoco. Si cambiano leggermente atmosfere, andiamo su qualcosa di vagamente più grezzo, appartenente a ai Laibach. Storia dell'industrial sloveni in attività dal 1980, e questa sera abbiamo qui sotto mano Sketches of the Red Districts. Gli affezionati sanno la carriera dei Laibach, costellata di lavori anche molto diversi tra di loro, dall'IBM all'elettronica, all'industriale più monumentale, all'hard rock addirittura, al neoclassico, al martial, e soprattutto quest'ultima componente è ben presente in quest'ultimo lavoro. Una lunga traccia che tenterò di pronunciare: Nekaj Vacnin Naselni Mizli e Botuzi Urmertivi, sloveno. Una lunga traccia di ben 13 minuti per i Laibach. nekaj važnih in načelnih misli, a bodo oči v usmeritvi. povedan obstoj privatnih monopolističnih organizacij, kakršne so karteli, sindikati, trusti, če to zahteva splošna korist. Podpira malega in srednjega, svojo splošno gospodarsko politiko, cenenim kreditom in davčnim sistemom. Če to zahteva splošna korist. Una delle tracce più complesse strutturalmente parlando, composte da Laiba, che mi fa piacere che lo abbiano fatto nel 2023, ben 43 anni dopo la loro nascita, con questo entusiasmo, perizia e classe, una vera orgasmizzazia, come dice Venusia Stramonio, notoriamente maestro di sloveno. Il turgore industriale dunque di Laibach, un ottimo ritorno, tra i migliori album, mi spingo a dire, per questo collettivo sloveno. Saluto Filippo Panichi, che si chiedeva, come molti di noi magari, l'attuale formazione dell'Aibach, da quanto so e da quanto ho visto magari in un recente passato, gli unici della cosiddetta vecchia guardia sono rimasti Jan Novak e naturalmente la voce di Milan Frass, notevole alla voce femminile di Mina Spiller. Sul palco sono almeno 5 o 6, quindi non so se gli altri siano poi nel nucleo permanente di Laibach o siano magari dei musicisti che collaborano in maniera saltuaria. andiamo invece a sentire e a verificare il turgore scandinavo che emana Nordvarg attraverso Resignation 1, 2, 3, compilation che racchiude un paio di album uscite circa una decina di anni fa, più il terzo volume che invece è ex novo. Nordvarg, anch'esso musicista con i piedi in tanti progetti, quest'album esce per la Cyclic Low, la diciamo parte francese della Cyclic Low, e ci ascoltiamo la seconda e terza traccia che hanno soltanto appunto questi numeri e non titoli.